particolarmente delicata. Non c'è speranza di uscirne senza danni. Non puoi assolutamente prescindere da questi dati. La tendenza è micidiale.